In una lettera a Ludwig Kugelmann del 27 luglio del 1871, Marx faceva notare che fino a quel momento si era creduto che la formazione dei miti cristiani sotto l'impero romano fosse stata possibile soltanto perché non era stata ancora inventata la stampa. È proprio l'opposto, invece, dice Marx. Proprio all'opposto, la stampa quotidiana e il telegrafo, Marx non aveva ancora a che fare né con radio né con televisione né con internet, proprio all'opposto, la stampa quotidiana e il telegrafo, che ne dissemina le invenzioni in un attimo attraverso tutto il globo terrestre, fabbricano più miti in un giorno, e il bue borghese ci crede e li diffonde, di quanto una volta se ne potevano costruire in un secolo. Si comprende allora come per la prima volta nella lunga storia delle guerre, fra gli obiettivi di uno dei contendenti, in questo caso la NATO, possa aver trovato posto anche il prestito per 6 ore al giorno dei canali televisivi del nemico, ricevendone in risposta picche, va da sé che i missili vengano intelligentemente guidati verso i ripetitori del segnale televisivo. Meglio nessuna nuova che la loro nuova. Già Caino aveva giocato sulla disinformazione di Abele. Andiamo nei campi, gli aveva detto, guardandosi bene dal fargli capire che aveva tutte le intenzioni di liberarsene una volta per tutte. E quindi, da che mondo è mondo, in ogni guerra che si rispetti, la parola e l'immagine sono state brandite quanto e più della spada. Tutto ciò grazie ad una concezione della verità che non so quanto ancora sia diffusa davvero. Ciò che la televisione farebbe vedere sarebbe il vero che persuade, perché il nemico non si presenta più come tale, ma come una fonte disinteressata che informa di come il destinatario dell'informazione venga ingannato dall'informazione dell'amico. È quella forma di disfattismo indotto che solitamente viene combattuta nei regimi autoritari prima ancora che ci sia davvero. Ma per l'appunto questo duro colpo inferto alla coesione ideologica del nemico può far leva soltanto sull'affidabilità indiscussa di una fonte, accreditata all'ossadio perché della verità e non di un punto di vista fra gli altri legittimo quanto ciascuno degli altri. Tutta l'esperienza che abbiamo accumulato in materia di televisione fa sì che nessuno di noi sia più disposto a concedere simili crediti, e non si capisce perché bene, perché i serbi o i kosovari debbano essere più di noi disposti. Prima ancora che nel montaggio di immagini da cui sistematicamente, al di là dell'istintiva reazione emozionale, non comprendiamo poi alcunché, già nel linguaggio si annidano i primi imbrogli. Un esempio fra i più abituali, fra quelli cui non facciamo neppure più caso. Gitarella di Pasqua. Gitarella di Pasqua e Pasquetta, quella degli italiani motorizzati. Il bollettino televisivo annovera 60 morti e 2000 feriti, nonché una terrificante coda di 20 km di automobili bloccate sull'autostrada del sole. Commento del telegiornale. Sul posto sono state inviate alcune ambulanze per prevenire eventuali malori tra gli automobilisti. Ora, questi malori ovviamente dipendono dalla coda, dalla sosta prolungata, dai nervi, dalle necessità di persone praticamente isolate nella massa. I malori non certo dipendono dalla presenza o meno delle ambulanze. Le ambulanze servono per l'appunto in caso di malori, non li prevengono, no? A meno che non si intenda che la presenza di un'ambulanza abbia di per sé un potere tranquillizzante e rasserenante che sostituisca, giulività e beatitudine, sostituisca la disperazione furibonda degli automobilisti fermi in coda, intossicati dai gas di scarico. Eppure il venirci a raccontare a noi che fortunatamente non possediamo l'automobile, a noi tanto nemici dell'ideologia turistica da stare sempre comunque lontani da qualsiasi vacanza dello spirito e del corpo, venirci a raccontare che sono state inviate alcune ambulanze per prevenire gli eventuali malori degli automobilisti, risponde ad una funzione ideologica ben precisa. Si mostra l'efficienza e la preoccupata solerzia del potere, assegnandogli perfino la magica virtù di impedire ciò che in nessun modo con quei mezzi può impedire. NATO o Serbia che sia, o governo italiano e RAI, chi ha la televisione, non tanto perché ha la televisione, ma già perché ha la parola, inganna a proprio vantaggio, o tenta di ingannare in una lotta incerta e complicata con ciascuno di noi che, da che mondo è mondo, abbiamo imparato a non fidarci. Anche se, ogni tanto, al colmo dell'angoscia da solitudine, non vedendo l'ora di credere qualcosa, cediamo. In un romanzo di Le Carré, un vecchio romanzo, l'Onorevole Scolaro, che è del 77, si racconta di una manipolazione. Un giorno in un ufficio postale un telegramma arriva alle 17 in punto. Per conferirgli maggiore credibilità e importanza presso il destinatario, l'impiegato ci scrive sopra 17:06. Di questa guerra in corso ci si racconta del costo di ciascun proiettile sparato, del peso degli omogeneizzati fatti rubare alla mafia 39 tonnellate, che del numero delle coperte o delle tende inviate ai profughi e poi sparite. I giornali abbondano in tabelle riassuntive dove i numeri primeggiano e di articoli in cui il minuscolo assurge ai tragici onori della cronaca. Non si creda di star guadagnando qualcosa. Konstantin Noika, impregato per il fratello Alessandro, osserva che il mondo di oggi l'ha fatta finita con le verità, fossero esse religiose, filosofiche o dogmi incontrollati della tradizione, quindi le verità con la V maiuscola. Ha per contro un numero tale di piccole verità locali che si sente come in un caos. E allora, dice Noika, allora vuole esattezza. Purtroppo Noika è un ottimista, perché nell'autoinganno di una verità prima o poi ci caschiamo, e perché l'esattezza è semplicemente un concentrato di quelle verità garantite alle quali chi comanda non deve rinunciare per mantenere il proprio potere e alle quali chi ubbidisce non può rinunciare per giustificare la propria obbedienza, ma che nella forma maniacale dell'esattezza del dato, che è esito di un processo che si forse è avviato già con la settecentesca burocrazia prussiana, in questa forma maniacale consista la manipolazione più moderna delle coscienze, mi sembra un fatto inoppugnabile. La parvenza di scientificità è diventata il capitolo fondamentale dell'arte di persuadere. Ancora a proposito della televisione e del suo valore di verità, consapevole no. Sono in treno. Nel mio scompartimento, dormendo o facendo finta di dormire chi li accompagna, nel mio scompartimento governano 5 bambini che tra un gioco e l'altro, tra una zuffa e l'altra, fanno qualche chiacchiera salottiera per riprendere fiato. Uno di 5 anni dice a quello di 6: non hai mica 12 anni e hai già la fidanzata. Guarda che in una trasmissione alla televisione, risponde quello di 6, hanno detto che un bambino di 3 aveva già baciato in bocca una bambina, ha detto proprio in bocca e non sulla bocca. Gli voleva bene, ma non era amore, replica quello di 5. E poi lo dicono alla televisione, ma non è vero. Che nessuno si senta autorizzato all'ottimismo. Fra le grandi verità si va diffondendo l'idea che la televisione racconti balle, ma anche, ahimè, che va bene così.